fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Di nuovo ben trovati, Ristoradio Convento, sempre in diretta con Master Nick. C'è un famoso detto, c'è un famoso modo di dire che racconta che l'abito non fa il monaco, e direi che questa è l'occasione giusta per tirarlo fuori, perché quando, come dire, un abbigliamento, un costume ti colpisce, è giusto sottolinearlo. È il caso assolutamente di questo ragazzo e di questi ragazzi in generale, che stasera direi hanno a mani basse vinto il premio come costume più originale della serata, assolutamente. E il tutto, perché è da sottolineare, per un motivo vero, cioè non è che ci sono vestiti a casaccio. No, no. E no, infatti lui, dico, esatto, cioè hanno preso direttamente dall'anagrafica il vero motivo per il tema centrale della festa. Allora, conosciamo il protagonista intanto? Benvenuto. Ciao Massimo. Benvenuto Massimo, ma attenzione perché non finisce qui. Massimo ha un secondo nome che ha un perché. Mosè. Mosè, benissimo. E ça va sans dire, come vi siete vestiti questa sera? Beh, lui... Io da Mosè. Beh, tu da te stesso fondamentalmente. Sudditi. Da te stesso e loro, i suoi sudditi, frati. Un po' frati, esatto, un po' comunque ricordano... ricordano, esatto, i seguaci di Mosè. Ma ciò che conta, visto che le porta con peso, perché mi sa che l'hanno un attimino messo in difficoltà questa serata... Mosè è caratterizzato dalle tavole della legge, insomma dalle tavole del verbo che ha diffuso, e ci sono delle tavole vere e proprie, e come potete sentire, anzi facciamo proprio un effetto scenico, cioè legno vero, cioè legno puro. Com'è andata Mosè? Legno massello, pesante. È pesante, ce l'hai fatta a reggere l'urto? Sì, un po'. Bene, bene, bene. Allora, il nostro Mosè si sposa. Da dove viene? Intanto non ce l'hai ancora detto. Io passavo a provincia di Bini. Benissimo, si sposa, giusto dicevo. Chi è la fortunata e quando vi sposerete? Jessica. E quando sarà il matrimonio? 10 maggio. 10 maggio, quindi ci siamo, direi, meno di una settimanina. Sono proprio gli ultimissimi giorni. Ormai è fatto, ormai è... Quello che è fatto è fatto. Allora, poi ci sono chiaramente i suoi amici, due in rappresentanza della moltitudine di frati che ha invaso il nostro locale questa sera. Volete fare un saluto? Volete dire qualcosa? Ciao, io sono Francesco e sono onorato. Ma pensa a te, Francesco. Sì. Vestito da frate. È incredibile. Francesco. Fra Francesco. Cioè, sembrate fatti apposta. Che vi siate... Io frainteso. Frainteso mi piace. Frainteso mi piace. Saluto a tutti. Allora, come mai la scelta di questa serata e di questo modo di presentarsi, anche se già l'abbiamo anticipato, è un po' scontata? Il nostro modo di vivere, cioè, ci sta, sì. Ci sta, sì, sì. Ci sta, dai. Beh, d'altronde, come dicevo, con una fonte di ispirazione come il secondo nome del nostro Massimo, non potevate non essere da meno. Esatto. Insegnamenti sono importanti, fondamentali, come si legge. Fondamentali. Esatto. Non svegliamo gli insegnamenti, si sa che sono solo per pochi e bisogna andare a scalare le montagne. Sono anche simboli. Sì, sono anche simboli, giustamente, perché hanno un po' ripreso tra i geroglifici, insomma, le scritte antiche degli antenati veri di un tempo. Sì. Ah, delle sante, certo. Però dicevo, per leggere e interpretare le scritture bisogna faticare, salire le montagne, certo. E non è che possiamo svelarle così a tutti, subito, senza fatica. Quindi rimarranno qui. Se volete scoprirne di più dovete seguire il nostro Mosè. Volete dirgli qualcosa? Volete salutarlo? Volete mandargli un messaggio? Sono i migliori auguri. Gli vogliamo bene, ma a lui e alla futura sposa. Bene, direi che molto sincero con lui. Molto sincero, mi piace anche questo, onorati di essere qui con lui. Allora, grazie mille ragazzi, vi auguriamo buona festa, anche perché inizio a vedere affaticato, il peso della legge e della parola è importante, e del verbo è importante. Allora, grazie ancora e buona fine serata grazie qui al convento. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.